Diritti e rovesci, in collaborazione con Adico, Associazione Difesa Consumatori. Eh sì, parliamo di regali di Natale, magari un po' più piccoli, magari un po' meno costosi, però insomma sarebbe un peccato perdere una tradizione, come dicevano i nonni, è meglio aprire una tradizione nuova che perderne una vecchia. Tra queste tradizioni, appunto, che si adattano anche ai tempi e alla crisi, c'è proprio quella dei regali di Natale. Salutiamo il presidente dell'Adico, Carlo Garofolini. Ciao Carlo. Ciao Mirko e un saluto a tutti gli ascoltatori. Allora, anche i regali di Natale cambiano, come cambiano con la crisi? Sì, hai detto bene Mirko, i regali cambiano e malgrado la crisi comunque si cerca di non rinunciare magari a qualcosina, anche forse un piccolo pensierino, anche se scopriamo che poi non si tratta solo di pensierini, ma sempre più comunemente le persone cercano sempre di regalare delle cose anche necessarie o utili per quella che è la vita quotidiana in sé. Come cambia il fatto che quest'anno l'Adico ha voluto lanciare una piccola indagine per capire un attimino come le persone intendono effettuare gli acquisti, e come dato è emerso che rispetto all'anno scorso c'è un più 57% di persone che ha manifestato l'intenzione di fare acquisti con internet. Ecco, insomma, anche la tecnologia aiuta, quindi piuttosto di perdere tempo, strada e anche nervi nei negozi e nelle code, dal computer di casa si può facilmente cercare e trovare anche qualcosa di adatto. Che cosa si cerca? Che cosa si regala via web? Allora, innanzitutto Mirko, mi preme sottolineare e dare anche il consiglio che al di là di quelle che sono le modalità con cui effettuare gli acquisti e i pagamenti tramite internet, dare sempre il suggerimento di utilizzare questo sistema e la rete anche per sapere e confrontare i prezzi, perché internet oggi è sì uno strumento necessario e utile per acquistare, ma normalmente le persone fanno anche le comparazioni, quindi quando entrano su un negozio o fanno degli acquisti hanno già un'idea abbastanza chiara di quanto dovrebbe costare il bene. Poi per quanto riguarda gli acquisti, noi sappiamo che su internet normalmente gli acquisti sono sempre normalmente gli accessori, che in particolar modo sono gli abbigliamenti che fanno la parte del leone, i casalinghi e i beni tecnologici. Certamente poi bisogna sempre stare molto attenti quando si naviga su internet, si fanno degli acquisti, perché poi scopriamo che anche le modalità di pagamento bisogna essere sempre cauti, perché nelle modalità di pagamento molte volte si nascondono delle vere e proprie truffe. E per l'esperienza dell'Adico dobbiamo anche precisare che non si tratta solo del problema delle truffe, ma anche degli incidenti che possono molte volte capitare durante la consegna del pacco ordinato tra chi ha venduto e il corriere che lo ha consegnato. E allora partiamo dalle truffe per fare qualche esempio, cioè cosa può capitare e a che cosa bisogna stare attenti? Beh, normalmente può capitare che il bene che si acquista non è mai confacente alle aspettative. Cosa vuol dire? Che uno vede un'immagine, legge delle specifiche, lo acquista, poi gli viene consegnato un genere completamente diverso, o un bene che non ha nulla a che fare con quanto visto, o non rispondente ai requisiti che dovrebbe avere. La seconda cosa è che molte volte la gente prenota, vede anche quando quello che capita d'estate come anche d'inverno, dei weekend o dei ponti o due o tre giorni in montagna presso una struttura rispetto a un'altra, la struttura o l'appartamento oltre a non esistere non è assolutamente corrispondente a quelle che sono magari le stelle o quelli che sono i servizi che in questo caso ci sono. Per quanto riguarda i beni tecnologici bisogna sempre stare molto attenti, perché sappiamo che su internet regna quasi in maniera incontrastata quelle che sono normalmente le falsificazioni o le truffe per prodotti contraffatti rispetto a quelli che sono le grandi marche. Qua dobbiamo pensare soprattutto non solo ai tecnologici, ma agli abbigliamenti, ai cartuglieri e agli accessori. Per cui queste sono delle avvertenze che bisogna avere molta molta attenzione, e purtroppo si possono evitare solamente quando si è certi di poter navigare su siti sicuri. Ecco, e poi dicevi il problema della consegna, che tipo di problemi si possono verificare? Il problema della consegna è un problema che si ripete molto frequentemente, soprattutto in questo periodo. Il classico tipico caso della persona che vede il prodotto lo acquista e gli viene consegnato 8. Chiaramente la prima reazione è quella di interessare subito il venditore, chiaramente il venditore subito si giustifica dicendo che l'ha rotto il corriere, e diventa un'odissea tra chi lo ha comprato e chi lo ha venduto e chi lo ha trasportato. In questo caso chiaramente il consumatore si trova sempre rimbalzato da una parte e dall'altra, rischia anche di sostenere dei costi di raccomandate, perdite di tempo e a volte per sfinimento desistere. Il consiglio che noi diamo come Adico è innanzitutto sapere che il venditore è sempre responsabile, ma di verificare ogni qualvolta si decide di fare un acquisto o sottoscrivere un contratto, di leggere sempre bene le clausole contrattuali, perché nelle clausole contrattuali dovrebbe essere sempre specificato e ricondotto le responsabilità del venditore nel trasporto, e soprattutto verificare se nel trasporto c'è una specifica magari assicurazione e valutare in funzione di quello che è il bene che si vuole acquistare, pensiamo a qualcosa di valore, se integrare un'assicurazione minima rispetto a quella proposta. Insomma, qualche problema può esserci, però se, come dicevi all'inizio, è aumentato del 57% il numero di chi ha utilizzato internet per fare i regali di Natale, vuol dire che evidentemente il giro c'è, insomma, c'è un giro notevole, e qualche problema evidentemente si può verificare, ma non riguarda magari la maggioranza dei casi. È vero ed è così, ed è anche vero che normalmente la maggior parte degli incidenti capitano sulle persone che si improvvisano venditori o le persone che si trovano ad acquistare per la prima volta su internet. Come ripetiamo, è importante individuare dei siti sicuri, sappiamo che i siti sicuri normalmente sono quelli che recano la chiave del lucchetto, in particolar modo quando si devono effettuare dei pagamenti. Ci sono dei siti noti rispetto ad altri che sono, secondo a nostro avviso, sono sempre preferibili essere frequentati rispetto a siti dove magari nessuno ne ha mai sentito parlare. Il consiglio che noi diamo è sempre fare una ricerca sui blog o sulle recensioni per quanto riguarda il grado di affidabilità, che questo è un ottimo strumento per dare una valutazione generale sia del servizio che in questo caso del venditore. Soprattutto quando ci si rivolge a queste forme di acquisto, utilizzare sempre delle prepagate ed evitare sempre di dare dei codici troppo personali, come può essere il codice fiscale, perché poi sappiamo che ci sono vari casi, dalle clonazioni ai furti di identità, che si verificano. Quindi molta molta attenzione e soprattutto molta molta non solo prudenza, ma pazienza anche a leggere quelle che sono tutte le condizioni contrattuali, e se la gente ha del dubbio, che non esita a contattare anche l'Adico, che magari nel nostro piccolo possiamo dare dei suggerimenti, dei consigli rispetto a un sito che è magari un altro. Ecco, allora puntate, magari cercate, o almeno per confrontare i prezzi appunto su internet, piuttosto che magari fare effettivamente i regali, sperando che, insomma, nel giro di una settimana, se uno si trova così all'ultimo, magari i tempi di consegna potrebbero non essere così rispettosi della festività. Comunque è una nuova modalità che ci è piaciuto approfondire insieme all'Adico, che ritroviamo tra un paio di giorni. Grazie Carlo, buona giornata. Grazie a te Mirko e buona giornata a tutti. Diritti e rovesci, in collaborazione con Adico, Associazione Difesa Consumatori. Per riascoltare questo programma, vai su bluradioveneto.it.